Parte il ruggito e parte anche una nuova puntata di Futura 1993. Noi siamo Giorgia e Francesca e finalmente siamo di nuovo qui con voi. Siamo di nuovo qui con voi, siamo nel palinsesto di Fujiko Factory di martedì alle 16.30 come sempre e oggi abbiamo scelto di dedicare la nostra puntata ad un gruppo che ci sta veramente a cuore perché come noi condivide diciamo una realtà i nostri ideali molto vicina. Sì. Questi sono gli Atlante, è un gruppo che suonerà qui il 26 alla serata di Moved. Esatto, al Mikasa, quindi altri nostri amici. Insieme alle cose importanti, tra l'altro, un'altra piccola band emergente. È così e poi concluderà la serata un DJ set di Indie Pride. E questa è la realtà infatti di cui parlavamo. Mm-hmm. Forse quest'estate avrete visto i nostri video in cui facevamo firmare la carta di intenti con quel bel rossetto rosso. Sì. Beh, l'hanno firmata un bel po' di personaggi, eh. Sì, l'abbiamo fatta firmare a John Tiel, a è stato molto Sam divertente. Stan, bellissimo. E a Caroline anche, insomma, sì. Vari hanno artisti. Firmata un po' di persone, anche Willy Peyote, se non sbaglio, che tra l'altro ha presentato proprio qui a Bologna la serata dedicata a Indie Pride. Cos'è Indie Pride? È un'associazione il cui obiettivo è quello di debellare bullismo, sessismo e omofobia attraverso la musica. Quindi, insomma, coinvolge artisti addetti ai lavori, un po' di tutti. Vi invitiamo tra l'altro a informarvi perché insomma è molto importante, non riguarda soltanto le persone che lavorano nel mondo della musica. Hai detto bene, quindi una buona occasione per ricordare di firmare la carta se ancora non l'avete fatta, per unirci nel mondo della musica ma in realtà non solo, per la lotta insomma e per il raggiungimento di pari diritti per tutti. Dopo questo brano, allora con noi in diretta gli Atlante e poi qualche domanda insomma sul loro nuovo progetto. Pronto? Ciao. Pronto, ciao, siamo Giorgia e Francesca di Futura. Ciao, sono qua. Ciao. Siamo... Come stai? Anche se sono quindi via telefono. Piacere nostro. Piacere. Siete tutti insieme quindi? Sì, siamo tutti qua. Ok, ciao ragazzi. Ciao. Allora, noi vogliamo parlarvi un po' del vostro progetto, vogliamo sapere qualcosa in più, ma soprattutto sapere perché sarete al Mikasa in questa serata in collaborazione con Indie Pride, dove siamo stati anche noi, abbiamo firmato anche noi la carta di intenti, quindi dai, spiegateci un po' chi siete innanzitutto, poi andiamo avanti. Spulciamo tutto piano piano. Ma allora, gli Atlante, guarda, ti parlo io che sono Claudio, sono il cantante, okay, piacere. Okay. Piacere. Ciao, gli Atlante sono nati quasi ormai 3 anni fa totalmente a caso, da me che suonavo qualche pezzo in sala prove, in realtà la storia è un po' più lunga, sono stato in Inghilterra per diversi mesi e mi sono ritrovato a scrivere canzoni in italiano in Inghilterra, cosa che non è mai successa nella mia vita, e tornando qui ho cercato un paio di compagni di viaggio, diciamo, per arrangiarne un paio e vedere cosa usciva fuori. Dopodiché il tutto ha preso il via passo dopo passo e sono nati un po' gli Atlante così un po' a caso, credo, come tutte le band di questo mondo più o meno. No, oh, meraviglioso. Guarda, quando nasce così una cosa è la cosa più bella del mondo, no? Perché ci si ritrova così come amici e questa cosa credo si preservi anche dopo. Certo, sì. E c'erano Andrea e Stefano, che erano questi altri due ragazzi che suonavano nella scena torinese. E ho detto, ma proviamo a vedere, batteria e basso. Poi in realtà Andrea, che suona il basso negli Atlante, era un chitarrista, io ero un batterista, quindi è stato proprio un puzzle di cose un po' a caso. È nato così proprio in sala prove per scherzo e poi pian piano abbiamo dovuto comprarci relativi strumenti perché non ce li avevamo, quelli dei fratelli e poi niente, bene o male ora sta prendendo una piega un po' più seria però. Sentite ancora, un po', diciamo... ma questo nome Atlante da dove nasce? Ma Atlante nasce un po' dall'esigenza di avere un nome che iniziasse con la A per una qualche perversione che avevo 3 anni fa, non so perché. Come? Forse per, spiegacela. Forse semplicemente per essere in cima all'iPod, probabilmente. Ah, per avere fantastico. Bene, strategici. Ci vuole l'alfabeto. È stato abbastanza casuale, poi ci sono state altre coincidenze che si sono unite. Tra cui avevo un taccuino su cui scrivevo questi testi delle prime canzoni che mi piaceva chiamarlo Atlante, mi piace dare il nome alle cose, alle, ecco, digitare, ai miei amplificatori sono tutti con nomi, anche la mia macchina, eccetera. Quindi questo taccuino aveva il nome. Come si chiama aveva la tua il nome macchina? Di Atlante, perché questo taccuino aveva il nome di Atlante perché un po' si portava, diciamo, il mio mondo sulle spalle. Quindi poi ha preso, gli altri due erano d'accordo e questo è stato poi il nome del gruppo. Adesso voglio saperlo, come si chiama la tua macchina? La mia macchina, allora, la mia macchina si chiama Multipla, però con la M maiuscola, cioè il nome proprio della Multipla è diventato anche il nome proprio, così una casualità. Ti voglio però già bene. Non potevo dare un altro nome se non Multipla, quindi quello. Non vediamo l'ora di conoscervi. Esatto. Arriveremo con la nostra Multipla azzurra, ci vedremo arrivare. No, meraviglioso. Di adesivi, piena. Meraviglioso, ma questo accento che conosciamo bene perché insomma abbiamo conosciuto come voi e gli Eugenio in Via di Gioia. Anche Willy Peyote. Anche Willy Peyote, quindi è un accento noto. Ma com'è stato e com'è tuttora fare musica a Torino? Allora, guarda, hai nominato due artisti che noi ammiriamo tanto e che con Eugenio anche siamo molto amici, infatti avevamo aperto qualche loro concerto in passato e loro, diciamo, hanno preso abbastanza, soprattutto Willy Peyote, anche loro hanno avuto bene o male la fortuna e il grosso lavoro che c'è dietro anche di prendere un po' il via a livello nazionale. Mm-hmm. Qua a Torino, diciamo, siamo abbastanza ghettizzati nel nord-ovest dell'Italia, quindi alle volte è un po' difficile trovare situazioni per uscire, per viaggiare, eccetera, però c'è da dire che all'interno di Torino c'è una struttura abbastanza solida tra band e appunto musicisti, ci si supporta anche abbastanza vicende, c'è un bell'ambiente abbastanza caldo. È ovvio che essendo una città isolata anche geograficamente dal resto d'Italia, probabilmente molto meno centrale di Bologna, di Roma e di altre città che possono avere un'affluenza maggiore di artistica, mettiamola così. Però non ci lamentiamo, insomma, potevamo nascere nelle campagne e lì sarebbe stato molto molto più difficile. Guardiamo il lato positivo. Il 18 gennaio esce il vostro disco. Sì. Beh, diteci cosa potete qualcosa. Anticiparci? Sì. Allora, è un disco di cui io non, in realtà io non volevo questo nome. Sto scherzando, un disco che praticamente contiene tutto, cioè contiene proprio noi stessi al 100%, perché anche il titolo, Entro più di immagini e pensieri, rappresenta proprio tutto, cioè, tutto questo caos, proprio l'entropia che è all'interno anche di noi stessi quando scriviamo e quando componiamo. Scusate, c'è Claudio che sta strimpellando. No, e comunque anche nel disco si può trovare molta eterogeneità tra i pezzi e questo rappresenta proprio in tutto e per tutto il caos che abbiamo dentro. E ovviamente sarà un disco comunque molto rock anche rispetto all'EP, ci sono molte influenze più pestone, però ci piace, vogliamo finire il concerto sudati e quindi questo disco ci permette di farlo scapellando. Quindi che rapporto sperate di instaurare con il vostro pubblico? Quale rapporto speriamo di instaurare? Ma allora, perché Cosmo poi non l'hanno più preso quando si è buttato. No, non abbiamo capito, scusa. Perché Cosmo poi non lo hanno più preso quando si è tuffato sul pubblico. C'è stato un fraintendimento. Ma allora, sincero, a noi piace molto suonare in posti dove non c'è il palco, perché ci piace stare alla testa delle persone che ci ascoltano e se riusciamo anche a mischiarci fra di loro. Quindi il rapporto che cerchiamo è sempre molto paritario. Birra prima e dopo il concerto insieme, possibilmente. Anche quindi durante. Assolutamente più contatto possibile. Anzi, più i palchi sono grandi, più ci sentiamo un po' a disagio, perché sentiamo un po' la freddezza della situazione. Però, insomma, il rapporto con il nostro pubblico qui a Torino, che abbiamo un po' di gente che ci segue, è sempre stato molto positivo, insomma sono anche nostri amici e poi si instaura un rapporto anche d'amicizia, insomma. Ottimo. Oltre che Io, conoscendo il Mikasa, so perfettamente che vi troverete a vostro agio, perché di solito si crea sempre un'atmosfera molto intima. Sicuramente sarà altrettanto anche il 26, quando verrete qua a Bologna, in occasione, appunto, come dicevo in apertura, della collaborazione con Indie Pride. Cosa vuol dire per voi oggi schierarvi per la difesa dei diritti, insomma, anche degli omosessuali e dei transgender? Per noi, secondo noi adesso è importante cioè schierarci da questo punto di vista, anche perché riteniamo che i diritti umani siano alla base di questa nostra società. Cioè, poi ovviamente non evitiamo di parlarne nei testi, perché cerchiamo di essere sempre più i neutrali possibili, però umanamente siamo orgogliosi di condividere per la prima volta questa una serata che ha come collaborazione, appunto, Indie Pride e la difesa dell'umanità. Esatto. Bene, allora faremo firmare anche a voi la carta di intenti. L'hanno già firmata, avete già baciato la carta di intenti? Com'è? L'avete già fatta, avete già firmato la carta di intenti? No, non abbiamo firmato niente però. Allora vedi, Fra, dobbiamo stamparla, portargliela e la firmerete il 26. Ma sapete come si firma la carta di intenti? Con un bel rossetto che noi vi metteremo il 26 e vi faremo. Che bomba! Dovrete baciare. Anche suonare col rossetto. Sì, dovrete fare. Ormai ci avete promesso questa cosa, noi verremo armate di telefono e documenteremo il tutto. Perfetto. Io lo metterei a Stefano, il nostro batterista, comunque. Avrete materiale per i social per diversi mesi. No, meraviglioso. Ragazzi, noi vi aspettiamo con la vostra multipla allora qua a Bologna e vi ringraziamo ovviamente e ci diamo il rivederci a prestissimo, quindi al 26 al Mikasa. Perfetto, noi non vediamo l'ora di arrivare. Assolutamente. Va bene. Assolutamente. Grazie mille per essere stati con noi. Grazie a voi. Ciao. Un abbraccio. Ciao, a presto. Ciao. Ringraziamo Claudio, Marco, Stefano e tutta la terza E che ha partecipato alla nostra puntata, grazie ancora. E noi vi diamo appuntamento sicuramente al 26, avremo tanti ospiti, ci vengono a trovare un sacco di persone. È così. E poi no, anche al nostro evento. In realtà. Soprattutto al 27, perché il giorno dopo, domenica, non resterete a casa a spanciarvi, ma verrete a spanciarvi sui nostri divani del Dopo Hostel. Infatti ci sarà il nostro secondo sofa concert. Questa volta vedrà la luce il progetto di Benelli, quindi in anteprima esclusivissima per le orecchie bolognesi. Vi aspettiamo al Top Hostel in via Ernerio 41, se adesso, non sbaglio. Non diamo civici che poi ci sbagliamo, sì, no, perché succedono casini, suonano poi mi chiamano, campanelli. No. Dove mi hai mandato? Anzi, mi raccomando, a proposito di campanelli, allora, o vi presentate alle 18:30, oppure non è che arrivate alle 7, cioè questa casa non è un albergo. Ma come? Benché sia un ostello. Parla la parte diplomatica di Futura. Esatto. No, non sei tu, sono io. Grazie. Per sì, preservare certo. Il live vi consigliamo caldamente di arrivare per le 18:30, così ci facciamo a birretta insieme e poi ci spalmiamo sul divano per il live di Benelli. Vorrei ricordarti che non stai parlando con Carl Brave, eh? Ma ogni tanto lo sai che tira fuori il franchino che è in te. Va bene, ci vediamo per questo doppio appuntamento, quindi venerdì al Mikasa sarà un weekend di fuoco, anzi sabato al Mikasa e domenica dico una cosa, tu ne dici un'altra, non si capisce più niente. Fuego. Salutiamoci. Vabbè, ragazzi, salutiamoci ora prima di fare altri danni e a martedì prossimo noi in onda, ma per le vie di Bologna in realtà tra pochissimo. Bene, sì. Che dire, a presto ragazzi, ciao.